Dove sei? A casa sono, ma sono con l'antenna piccola. Ah, ma vabbè, niente. Come... Là come sale di meno adesso, Hai fatto, hai tarato la boomera? No, sono a casa della Marina. Ah, KK. Quanto sto arrivando con l'antenna piccola? 7. In ora amara. Cazzo, quanta differenza. Vabbè. E la radio è 3, dai, basta la radio la tua. Sono col portatile sono. Ah, già va bene, a voglia. Cappagappa. Ma un poco già esci, dai. Grazie, ho aumentato il radio, questo l'hai avvicinato. Me l'ho avvicinato, sì, guarda a vedere. Quasi 9, sì, dai. Ma hai aumentato anche il segnale? No, aspetta, sì, in mezzo, tra il 7 e l'8. L'ho visto, mi sono stato a occhiali, non che vedo bene. Cappagappa. Dimmi. Preparandomi ad andare a fare il vaccino, piano piano. Ma non lavori stasera? Sì che lavoro. Ma da che c'è il vaccino? Alle 3.20, non te la metti più. Al monte, dice la casa. Eia, salgo adesso, la boomera è andata tra. No, ma riga tu nuda, no. No, stamattina ho smontato anche il palo, la base, là. Ma non te l'ha data la boomera? No, non me l'ha data, poi ho cambiato un po' di bulloneria su le staffe. Come si dice? Niente, Fabrizio è pronto, solo che mi serve il pezzo di sotto. Un amico purtroppo non ce la fa oggi, ma lui... vabbè, niente, adesso vediamo, solo le mettiamo quel pezzo che gli ha dato Walter. Ma scusa, ma cosa ti serve il pezzo di sotto, quello in alluminio dove c'è incastrato il palo? Bravo. E quello non lo vendono? No, nessuno l'avrei comprato, non ne hanno. Di quel diametro più grande, sì, ma più piccolo così, no. Beh, non c'è qualcun altro che vende alluminio. No, poi da chi puoi andare? No, non ce n'è di quella roba lì così. Poi se lo trovi, magari lo trovi, sì, proprio sottile. Che strano, cazzo. E non regge più sottile, capito? Invece lo metti il suo, con originale, cioè originale, là. E ti dura... Sai che quella antenna ti fa altre 15 anni, 20 anni. Strano, cazzo. Purtroppo lo usi tanto. Kappa. Cosa vuoi dire? Cazzo, strano che nessuno ce l'ha. C'è quelli che vendono alluminio o qualcosa ce l'hanno. Abbiamo girato, non ce n'è. Cazzo diavolo. E da Marceddu hai provato? Ehi, anche da Marceddu. Ragazza, ma l'andando gliela avrei messo in acciaio. Non ce n'è di quel diametro in acciaio. Neanche in alluminio. Noni. Sì, l'alluminio c'è, l'ha dato Walter, ma è più sottile, capito? Magari col tempo non regge più, quando si farà, invece se ne metto originale, visto che ha fatto una bella pulizia, l'ha pulita bene, di lusso, e mettendo di quel pezzo lì dura di più, anzi, capito? Comunque io i primi due pezzi me li ho già piazzati, già vulcanizzati, sono pronti, i radiali me li ho tutti levigati bene, ho levato una isolante dove c'è il gommino dove protegge, e niente, adesso è pronto a piazzare. Ok, meno male, dai. Ok, lui, devo salutare, dai, che mi sto preparando e ci sentiamo. Ciao Lu. E anche lui se ne è in campagna dopo, ciao. Ciao ciao. Hola, hola, hola. Attenzione, binario 10, KK. Attenzione 10. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. 1, 2, 3, prova. Attenzione 10K.